Di fatto è, diciamo, un processo democratico che riteniamo sia indispensabile per la città di Bologna. Questo perché il tema abitativo è un tema, insomma, che da diverso tempo viene dibattuto in ambito pubblico, senza che però, insomma, se ne si trovassero anche soluzioni efficaci rispetto al problema, che è un problema sicuramente variegato, che presenta, insomma, diversi fattori. Uno tra questi, sicuramente rilevante, è, diciamo, il boom, l'esplosione dell'utilizzo di piattaforme turistiche qua di Airbnb e Booking, dato appunto che in tante città europee si è già, insomma, provveduto a regolamentare il fenomeno, a dare delle regole chiare per evitare speculazione ed evasione fiscale. Noi crediamo che anche a Bologna ci sia questa necessità. Quindi, a partire probabilmente, insomma, non siamo ancora sicuri, ma a partire dal 20 settembre si aprirà questa fase di consultazione pubblica di tutti quei gruppi formali e informali, insomma, che hanno interesse, magari anche insieme a noi, di ridisegnare una città diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Come stanno cambiando gli affitti brevi, appunto, tramite queste piattaforme, il volto delle nostre città, in special modo quello di Bologna? Certo, innanzitutto c'è un dato quantitativo, nel senso che ad oggi siamo a più di 4.100 annunci attivi sulla piattaforma, dati che non riceviamo direttamente dalla piattaforma, mi riferisco a Airbnb, sono dati che non riceviamo direttamente dall'azienda stessa, dalla multinazionale stessa, ma sono dati che vanno ricercati, insomma, tramite una complicata forma di ricerca direttamente sul sito. Quindi già questo, insomma, ci fa capire come, insomma, ci sia un problema. Oltre da metà di questi annunci sono per case intere, e quindi questo anche secondo l'Istituto Cattaneo, che ha fatto questa ricerca commissionata anche dal Comune di Bologna. Insomma, è logico pensare che queste 2.000 abitazioni sono di fatto sottratte al mercato regolare degli affitti. E visto che appunto Bologna da diversi anni ormai presenta una domanda, anzi un'offerta di appartamenti immobiliari inelastica, è una domanda che invece cresce sempre di più, ci ritroviamo, insomma, a un'esclusione di migliaia di famiglie, di studenti, lavoratori dal diritto ad avere una casa, diciamo, a prezzi accessibili sostanzialmente. E appunto va ridisegnato un po' tutto, diciamo, il sistema delle politiche pubbliche in campo abitativo e fare veramente una politica pubblica, cioè provare a fare in modo che il comune o comunque gli enti pubblici siano regolatori del fenomeno e non, diciamo, un ente fra gli enti insieme ai privati. Uno dei problemi di Airbnb o di Booking è la scarsa regolamentazione. Come queste piattaforme potrebbero evolversi, se potrebbero evolversi in modo positivo? Ci sono varie formule, nel senso che anche ultimamente nel decreto crescita varato recentemente insomma, in Parlamento, quello che viene previsto appunto è un codice di identificazione, che è un codice, insomma, che, diciamo, è valido anche in altri paesi. E importante anche invece quello che si prevede, insomma, l'applicazione, diciamo, del fatto che Airbnb deve agire da sostituto d'imposta rispetto alle transazioni sulla piattaforma. È una cosa importante perché significa che la quantità di evasione verrà di fatto ridimensionata. Ora però questa era una norma prevista anche dal governo Gentiloni nella manovrina del 2017 e di fatto Airbnb non ha rispettato. Quindi al di là di queste multinazionali che sicuramente potrebbero andare verso una giusta direzione, bisogna aspettare i decreti attuativi, ci sono tante altre soluzioni e quindi un maggior controllo da parte dei comuni, diciamo, per gli appartamenti che vengono messi a disposizione, magari un limite anche di giorni, come è stato fatto in tantissime città europee e non solo, rispetto a quanto si può utilizzare l'appartamento su Airbnb su base annua, poi è comunque appunto un controllo molto efficace su quelle che sono le transazioni che avvengono sulla piattaforma, che spesso appunto non sono chiare. Basti pensare ad esempio, diciamo, più eclatante di Bologna, ovvero di questa Bettina, così si chiama l'host sul sito, che detiene 74 appartamenti. Questi 74 appartamenti in realtà non sono di Bettina, ma sono di Altis, che è una grande multinazionale attiva nel campo immobiliare. Ecco, quindi per evitare che ci siano questo fenomeno, bisogna necessariamente contrastare la speculazione dei grandi proprietari, insomma, e fare in modo magari che i piccoli possano svolgere quell'attività in regole, in un contesto normativo chiaro, che gli garantisca magari anche qualche entrata, insomma, Quindi qual è il vostro obiettivo adesso a breve termine? A breve termine, innanzitutto, noi speriamo appunto di coinvolgere quante più associazioni, comitati, organizzazioni studentesche, sindacali e quant'altro che possano effettivamente riferire rispetto a quello che vivono, essendo soggetti attivi in città, rispetto al tema abitativo. Questo perché scadrà il 9 settembre il termine per potersi iscrivere, insomma, all'istruttoria pubblica. E quindi insomma ci teniamo a che sia una discussione molto partecipata in città, quindi questo è sicuramente il primo obiettivo che ci stiamo dando. Dopodiché però nell'istruttoria vogliamo di fatto poi anche inchiodare la politica alle sue responsabilità e fare in modo che insomma ci sia un cambio di passo che non sia uno spot, ma che sia diciamo un cambio di passo radicale e netto, come ad esempio ci sono stati tanti, penso a Barcellona, penso a quello che sta avvenendo a Berlino in questi giorni, a Amsterdam, insomma ci sono tante esperienze positive da cui spero insomma Bologna possa anche essere esempio anche nel nostro paese, visto che comunque insomma c'è un vuoto normativo un po' in tutta Italia, ecco, quindi speriamo che ci possa andare in questa direzione.